cielo con il mare e cerca i suoi occhi ma non sa dove guardare. Difficile credere che è scomparso in un istante. Questa casa tutta ad un tratto sembra più grande. La rinviva quando sorrideva, ora come fa? Il calore che lo avvolgeva è diventato ghiaccio. E chissà se ora a mente calma ripensa alla sua immagine. Saranno fotogrammi che riempiranno pagine. Farà un'indagine per capire se lo vorrai davvero e al margine. Una scusa per dimenticare un'altra persona. Oppure ora è il punto di riferimento in ogni ora. Che mancano per rivederti, quando lei ti rivedrà non saprà che dirti. Ma bastano solo gli sguardi, dopo le emozioni si riaccendono. Quanti secondi e poi affondi dentro i suoi occhi. I pianti per quando ti sentivi solo saranno distanti, tu e lei soli. Giornate stupende, mano nella mano, pelle su pelle, pelle su pelle. Tu dimmi se ci sarai o dopo semmai scomparirai. Tu dimmi se mi vuoi o poi ti farai i fatti tuoi. È distante da me come il treno quando parte. Una lacrima che scende, la mia faccia è stabile. Il mio sorriso all'inizio del mattino. Mi batte il cuore come il giorno di San Valentino. Con una rosa in mano ti dico ti amo. Il sentimento è vero, non in vano. La tua lei è atterrata appena adesso sulla pista. Tante persone nella confusione non l'hai vista. E dentro di te ti fai mille complessi. Parlerai con la bocca o farai gesti, poi ci pensi. Ringrazi Dio che lei esiste e te l'ha fatta incontrare. Anche se abita distante, sai che è per te speciale. Per te speciale. Conti i minuti che mancano per rivederti, quando lei ti rivedrà non saprà che dirti. Ma bastano solo gli sguardi, dopo le emozioni si riaccendono. Quanti secondi poi affondi dentro i suoi occhi. I pianti per quando ti sentivi solo saranno distanti, tu e lei soli. Giornate stupende, mano nella mano, pelle su pelle, pelle su pelle. Conti i minuti che mancano per rivederti, quando lei ti rivedrà non saprà che dirti. Ma bastano solo gli sguardi, dopo le emozioni si riaccendono. Quanti secondi e poi affondi dentro i suoi occhi. I pianti per quando ti sentivi solo saranno distanti, tu e lei soli. Giornate stupende, mano nella mano, pelle su pelle, pelle su pelle. Tu se ci sarai o dopo semmai scomparirai. Tu dimmi se mi vuoi o poi ti farai i fatti tuoi.